Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da luglio a dicembre del 1827. La Grecia è quasi liberata, Navarino le forze turche sconfitte da quelle alleate. Lutto per la cultura e la scienza italiane, se ne vanno Ugo Foscolo e Alessandro Volta. E il mondo della musica austriaco piange il suo figlio adottivo Ludwig van Beethoven. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione andiamo in Grecia, dove una battaglia sembra aver deciso le sorti della guerra d'indipendenza greca. La Russia, la Francia e il Regno Unito avevano inviato le loro flotte come forza di interposizione. Volevano evitare che le rappresaglie dei turchi sui ribelli greci fossero troppo dure. Ma si sa come vanno le cose. Quando sono partiti i primi colpi di moschetto da una lancia turca contro una britannica, l'ammiraglio Codrington ha deciso di agire e la battaglia nella baia di Navarino è iniziata. È durata 3 ore e le forze ottomane sono state letteralmente annientate. Oltre 4.000 i morti fra i turchi, meno di 500 tra gli alleati. Ma non è solo il popolo greco il beneficiario di questa vittoria. Gli stessi francesi, gli stessi inglesi guardano con sospetto ora allo zar Nicola I e alle sue mire espansive sul Mediterraneo e alle operazioni militari che sta mettendo in campo, bloccando con le navi i Dardanelli, il Bosforo e i porti del Mar Nero. Tanto è il timore che Codrington non è stato accolto con i consueti festeggiamenti a Londra e anzi sembra che sia caduto in disgrazia. Paolo Piacenza è il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Gli stati italiani perdono due grandi personaggi, uno del mondo della cultura e uno del mondo della scienza. Il primo è Ugo Foscolo, poeta, nativo di Zante, si è spento a Turnham Green, sobborgo di Londra, dove viveva da esiliato dopo aver composto opere patriottiche ed essersi sempre professato a favore dell'unione tra le varie parti della penisola. L'altro è il fisico Alessandro Volta, scomparso nella sua nativa Como. È stato l'inventore della cosiddetta pila, ossia uno strumento che permette di creare corrente elettrica. Tra i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti la medaglia Copley della Royal Society di Londra e la Legion d'Onore, è stato anche senatore del Regno d'Italia sotto Napoleone. E vogliamo invece salutare così, con la marcia funebre tratta dall'Eroica, la sua terza sinfonia, Ludwig van Beethoven, lo straordinario musicista tedesco che si è spento a Vienna, la sua città adottiva, all'età di 56 anni. Al suo funerale si è raccolta una folla di 20.000 persone. Ed è tutto sul nostro blog, sulla nostra pagina Facebook trovate notizie, spazi di discussione e approfondimento, sul nostro sito Il Foglio Quotidiano con immagini e notizie, missive digitali a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.